24 mattino estate con Irene Zerbini. E allora buona giornata anche a chi ancora non ha deciso se rimanere a letto, alzarsi, a chi sta guidando, a chi è in vacanza, a chi è in città. 15 minuti dopo le 7 su Radio 24, questo 24 mattino versione estiva. Non ci sarà il sondaggio bianco-nero, ma continueremo a discutere dei temi dell'attualità. In tempi di austerity, le ricette per uscire dalla crisi, soprattutto dal clima di antipolitica dilagante, non si sprecano. Ultima in ordine di tempo è stata la proposta del ministro Roberto Calderoli di far lavorare i politici anche nel mese d'agosto. In pratica, per primi, i politici facciano le rinunce e i sacrifici dopo l'approvazione di una manovra che andrà pesantemente a toccare le tasche degli italiani. C'è però chi considera questi propositi delle mere boutade, chi li ritiene utili per il rilancio morale economico del paese. Ne discuteremo alle 8.30 con Gian Antonio Stella, con un deputato tedesco della ZDU, Manfred Kolbe, nostro ospite. E vorremmo sapere se anche i giornali se ne sono occupati oggi. Allora, benvenuti alla rassegna stampa. Tra pochissimo con la voce di Giulia Crivelli. In primo piano. Giulia, buongiorno. Buongiorno Irene, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, la risposta alla tua domanda è sì, molto. Questa proposta di Calderoli ha suscitato molte reazioni, ancora oggi i giornali ne parlano. Io sono curiosa di vedere poi quanti l'accoglieranno, se Calderoli stesso andrà in vacanza o no. E quindi diversi naturalmente gli approcci e le risposte a questa proposta. Che altro c'è in primo piano? E naturalmente i primi effetti, le prime reazioni al piano di salvataggio degli Stati Uniti, chiamiamolo così, come lo chiama anche il Sole 24 ore, il salva USA. Ieri le borse hanno reagito malissimo a questo accordo raggiunto in extremis per evitare il default dell'economia più grande del mondo. Giulia, buon lavoro, ti seguiremo fino in fondo e ci ritroviamo più tardi. Grazie a te Irene, e poi appunto seguite poi questo sondaggio, sono molto curiosa di vedere che risultato avrà. Ma dicevamo, la crisi economica globale ancora in primo piano. Scorriamo velocemente i titoli dei giornali, delle prime pagine, e cominciamo dal Sole 24 Ore. È il mio giornale, ma è quasi ovvio consigliarvi di vedere, di guardare il Sole 24 Ore per cercare di capire veramente cosa sta succedendo a livello economico. Anche oggi abbiamo il giornale praticamente dedicato a tutta questa, a quello che appunto succede nel mondo, perché lo sappiamo, è un mondo globalizzato, ma parliamo del default non più della Grecia ma degli Stati Uniti, cioè l'economia, ripeto, più grande del mondo. E quindi il Sole 24 Ore apre l'apertura su quello che è la reazione delle borse di ieri. Borse, il salva USA non basta più, Milano ha perso il 3,87% e ha guidato, scrive il Sole 24 Ore, la caduta dei listini dell'Unione Europea. E poi questo spread, di nuovo un altro record dei BTP, cioè i nostri titoli di Stato, sul Bund tedesco. Questa è una cosa che ricorre, cioè questo è un indicatore importante per capire appunto quanto sia meno amato dai mercati i nostri titoli di Stato rispetto a quelli tedeschi, che invece lo sappiamo in questo momento è l'economia europea, forse più che europea, più sana. Dal Sole 24 Ore vi segnalo 15 pagine di analisi su quello che è successo in borsa. E naturalmente adesso mancano un po' più di un'ora e mezza, bisogna naturalmente vedere cosa succederà oggi, ma per questo bisogna ancora aspettare un pochino gli effetti, tutte le analisi di quello che è successo ieri. Quindi piazza affari, performance dei titoli RAGX, 3 pagine di questo con articoli di Luca Davi, Carlo Feste e Fabio Pavesi, chi ha perso, chi ha tenuto, chi ha perso le banche e le assicurazioni, chi ha tenuto, l'effetto esportazioni per gli industriali in controtendenza, tutte le pagine dedicate a Tutto Risparmio, che è una delle due iniziative di agosto del Sole 24 Ore. Oggi gli approfondimenti sono sui mutui per la casa e sulle assicurazioni. Altro speciale del Sole 24 Ore per agosto, Tutto Manovra, queste sono le novità invece spiegate dagli esperti, controlli fiscali, depositi IVA, i due argomenti scelti oggi. E poi il manuale anticrisi, un'altra ancora iniziativa del Sole 24 Ore. Questa volta oggi c'è un articolo di Fabrizio Galimberti sui paesi emergenti. Lo abbiamo detto tante volte, ma non importa, è importante ripeterlo, che per le aziende è cruciale diversificare gli investimenti nei paesi in crescita, che sono i BRIC, ma non soltanto. BRIC sta per Brasile, Russia, India e Cina. E poi, appunto, Luca Veronese che ci spiega non solo BRIC, dal Vietnam al Messico, grandi potenzialità e forti ritmi produttivi. Naturalmente sono tantissimi gli articoli di cronaca, cioè che spiegano quello che è successo ieri, e moltissime le analisi. Questo era il Sole 24 Ore, il Corriere della Sera, naturalmente il titolo di apertura è sull'argomento economico, borse giù, Italia ancora nel mirino, vi segnalo in la fotonotizia del Corriere della Sera che è dedicato invece alla tragedia di Lampedusa ieri, ci sono stati 26 morti nella stiva di una di queste navi, che trasportano immigrati, e delle prime fermate è Lampedusa, e ieri la fotonotizia ritrae 25 corpi coperti da teli senza vita degli immigrati africani allineati appunto sul molo di Lampedusa. C'è un articolo di Isabella Bossi Fedrigotti, I dannati del mare. Poi un altro argomento legato, infatti il Corriere li mette insieme, scontri e feriti ieri nei centri di accoglienza di Bari e Crotone tra immigrati e polizia, anche lì sempre l'emergenza immigrati. Vi segnalo dalla prima pagina del Corriere della Sera un articolo di Roger Abravanel, che è un ex consulente McKinsey, anzi uno dei fondatori della McKinsey Italia, e che poi negli ultimi anni si è molto dedicato al tema della meritocrazia in Italia e non soltanto, ha scritto anche un libro di recente. Questa è un'analisi che Abravanel stesso dice viene da alcune indiscrezioni, quindi vediamo se poi sarà confermato. Comunque il titolo è Benvenuti al Sud con cento e lode, le due Italie della maturità, più rigore al Nord, i voti massimi sono la metà. Dalla Repubblica, il titolo della Repubblica, anche qui oggi c'è abbastanza un'uniformità nei titoli principali dei giornali. La Repubblica, crollo dei mercati, tonfo Italia, stessa nel catenaccio, che è quello che noi in gergo giornalistico è la riga sotto il titolo. Milano chiude a meno 3,87, anche qui spread al massimo storico, lo spread addirittura la Repubblica lo dà per scontato più di quanto faccia il Sole 24 Ore, non so se sia giusto dare per scontato questi termini così tecnici. Comunque lo spread è appunto la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi. E poi scrive Repubblica, svanito l'effetto Obama. Dalla prima pagina di Repubblica vi segnalo, e poi se avremo tempo ne leggeremo due articoli. Uno è sulla nuova tendenza dei cinesi, che sono insieme agli italiani forse quelli che copiano meglio, perché non si tratta più di copiare i prodotti in Cina, ma di copiare i negozi particolarmente caratteristici. Due casi su tutti, quelli della Apple, che con i suoi Apple Store è diventato un caso aziendale, e poi con i negozi IKEA. Quindi Gian Piero Visetti, corrispondente della Cina da Pechino per Repubblica, scrive: in Cina negozi IKEA clonati, la nuova frontiera del falso. E poi vi segnalo un articolo di Stefano Benni, scrittore, come testimoniare al processo lungo. È naturalmente un articolo, è una presa in giro, una cosa più che una presa in giro, è un articolo grottesco dove Stefano Benni, un po' come la satira preventiva di Michele Serra sull'Espresso, immagina uno scenario futuribile, che cosa succederà se veramente il processo lungo passerà. Sapete, il processo lungo è quel provvedimento che ha riformato il processo penale. Per ora c'è stato un sì del Senato, e dopo le vacanze ci potrebbe essere il sì definitivo da parte della Camera. La Stampa, anche qui, anche oggi, come vi dicevo, titoli uniformi, niente effetto USA, borse KO, bruciati 15 miliardi. La Stampa aggiunge questo dettaglio che è legato direttamente alla perdita del 3,87% di Milano, nel mirino i titoli di Stato. E poi c'è un'ulteriore annotazione della Stampa che scrive subito: il Premier domani interviene in Parlamento, poi vedrà le parti sociali. Vi segnalo un'intervista a Susanna Camusso, leader della CGIL, meglio andare a votare. Dice la Camusso: imitiamo la Spagna, i mercati apprezzeranno, quanto a Italia la spesa sociale non se ne parla, risponde Susanna Camusso. E poi vi segnalo, io sono molto contenta, da oggi è tornato il buongiorno di Massimo Gramellini, vice direttore della Stampa, era giustamente in vacanza, adesso è tornato. In generale lui fa così, va in vacanza in luglio e poi resta con noi in agosto. Il buongiorno è la sua rubrica sulla prima pagina della Stampa, oggi è dedicata a Marine, l'ex fidanzato di Federica Pellegrini, la super campionessa di nuoto, che è appena tornata trionfante da Shanghai e tra 3 giorni festeggerà il suo compleanno a Roma. Il buongiorno dei Gramellini si intitola Caro Marin, ve lo leggo. Caro Marin, naufrago della Pellegrini, perdoni se rispondo a una lettera che lei non mi ha scritto, ma alcuni lettori mi hanno chiesto di spedirgliela. È tale l'umore collettivo depredato da borse e borsaioli che si sente l'esigenza di evadere in un dolore più puro. In questi giorni lei incarna in mondovisione quel che nel nostro piccolo almeno una volta siamo stati o saremo un po' tutti, l'innamorato abbandonato e tradito. Il suo strazio è passato attraverso tutte le fasi della narrativa sentimentale, a cominciare dall'equivoco sulla pausa di riflessione, che per chi ama ancora rappresenta una sosta ai box, mentre per chi ha smesso di amare è solo la scorciatoia che lo dispensa dall'imbarazzo di un discorso d'addio. Quando lei archiviò la Manadou e si trasferì da una primatista mondiale all'altra, la consacrai simbolo di un uomo nuovo, il maschio femmina, altruista e sensibile, che sa infondere sicurezza a compagne ingombranti, senza smarrire quella in se stesso. Si tratta di un equilibrio magico e a 20 anni parecchio provvisorio. Appena uno dei due smette di nuotare, l'amore affoga e non esiste virata che lo rimetta a galla. Ma mi creda, non è mai un altro maschio ad affondare la coppia, può essere solo una scialuppa con cui la sua ex ha riguadagnato la vita, in attesa di ripartire verso un altrove che non contempla né lui né lei, caro Marin. Non presti orecchio alla voce livida della gelosia. Faccia conto di aver preso un malanno, si metta a letto per un mese senza guardare la TV e senza andarci, possibilmente. Guarirà e sarà pronto per togliersi il gusto a lei ignoto di innamorarsi di un'ignota. Ecco, oggi Massimo Gramellini torna con questa, secondo me bellissima, ma lui è un esperto di questioni sentimentali, ha una rubrica sulla Stampa che si chiama Cuori allo specchio, forse uno dei pochissimi uomini che ha queste rubriche di posta del cuore, spesso affronta anche argomenti diversi, di respiro diverso, ed è per me ugualmente bravo. Prima di passare prima di dare la linea al meteo, guardiamo qualche altro titolo delle prime pagine. Il Messaggero, torniamo sulla crisi economica, affondano le borse europee. E poi il Messaggero, come il Corriere, mette in prima pagina, dà in prima pagina grande spazio anche alla strage di immigrati a Lampedusa, così la definisce. Poi c'è un virgolettato di uno dei sopravvissuti: gridavamo per uscire, soffocati nella stiva. E anche qui c'è anche legata la notizia dei centri di immigrazione di Bari e Crotone, dove i rifugiati sono in rivolta, scontri con la polizia e feriti. Prima di vedere il meteo, il titolo della Gazzetta dello Sport, naturalmente è tempo di calciomercato. I temi di oggi sono Balotelli del Manchester United, che ha detto ieri che non gli piace il Manchester, forse tornerà in Italia, e poi Aquilani, dopo un campionato con la maglia della Juventus è tornato al Liverpool, però piace a Galliani del Milan. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, stiamo scorrendo i titoli delle prime pagine dei giornali di oggi. È una scelta unanime quella di titolare sulla crisi delle borse di ieri, che è un riflesso della crisi economica e dell'accordo raggiunto in America per evitare il default, che però, si dice così, non è piaciuto ai mercati. Passiamo, abbiamo visto i principali quotidiani, adesso diamo uno sguardo alla prima pagina dell'Avvenire. Anche qui crisi nera, ora di agire, non basta l'accordo americano, le borse a picco. Ma dalla prima pagina dell'Avvenire vi segnalo due cose. La prima è il mattutino di Gianfranco Ravasi, rubrica di Gianfranco Ravasi ogni giorno sull'Avvenire. In generale lui sceglie un brano di un qualsiasi testo laico o religioso e poi lo commenta. Oggi la rubrica si intitola Il mondo non è monocromo e vi leggo la parte finale. C'è una suggestiva metafora rabbinica che afferma: Dio ha fatto tutti gli uomini con lo stesso conio, ma a differenza delle monete che risultano uguali, le creature umane sono tutte diverse, si pensi solo alle impronte digitali. In questo mese di viaggi in luoghi estranei scopriamo allora la razza mirabile della diversità e dunque il rispetto e la tolleranza. E tra l'altro dedico questa rubrica idealmente a un ascoltatore che ci ha appena mandato un sms perché non era d'accordo sul buongiorno di Gramellini, però appunto siamo tutti diversi, quindi come dice Ravasi. Dalla prima pagina dell'Avvenire vi segnalo però anche un'altra notizia, ed è quella della Somalia. L'Avvenire oggi è l'unico giornale che parla di questa tragedia di cui appunto nessuno parla. Si richiama l'appello fatto dal Papa durante l'Angelus di domenica, scrive l'Avvenire: Rapporto Caritas rivela: un quarto della popolazione della Somalia è sfollata e vaga per il paese in cerca di cibo, rifugio e un luogo sicuro. Il livello di mortalità è come nel 1992, quando la fame uccise 250.000 persone. Il mondo si muove, la Francia porta a 30 milioni i fondi per l'emergenza e l'Unione Africana convoca un vertice ad Addis Abeba. Gli aiuti UNICEF raggiungono anche le aree più remote mentre prosegue la battaglia tra esercito e Shaab, cioè le milizie musulmane. Almeno 16 morti e 20 feriti. C'è una pagina intera, pagina 6 dell'Avvenire, dedicata a questa crisi in Somalia umanitaria e che si aggiunge, anzi, che è strettamente legata alla carestia che ha legato al paese, che ha colpito il paese, e appunto alla guerra civile che c'è. L'Unità, la prima pagina dell'Unità, qui il titolo è: Berlusconi si muove, la borsa va giù, anche se con un carattere ancora più grande c'è il titolo sopra la fotonotizia ed è Morti di speranza. La foto è la stessa del Corriere, cioè quei 25 corpi coperti sul molo del porto di Lampedusa, 25 migranti asfissiati nella stiva del barcone partito dalla Libia, rivolta al campo profughi di Bari. Passiamo alla prima pagina del Giornale, qui il titolo, in realtà ho detto che i titoli erano praticamente omogenei, non è proprio vero, il Giornale fa eccezione perché il titolo del Giornale a tutta pagina è: si raddoppiano la paga, casta impazzita, nel Lazio pronta la delibera per aumentare lo stipendio ai manager regionali, alla faccia dei tagli. L'inchiesta su Marco Milanese, l'ex braccio destro di Tremonti, scrive il Giornale, spunta un'altra casa sospetta. Ci sono due articoli, uno di Alessandro Sallusti, no, l'inciuccio no, sempre in prima pagina, e uno di Mario Giordano, ex direttore del Giornale, ora editorialista. Abbiate fede, questa è l'estate dei tagli ai costi della politica. Sì, sì, lo so, domani il Consiglio regionale del Lazio discuterà una delibera, e poi continua a pagina 2 l'articolo di Mario Giordano, che naturalmente è ironico su questi annunci di tagli a cui poi non seguono i fatti. Il Libero, anche in questo caso... mi ero dimenticata del Giornale di Libero dicendo che i titoli erano omogenei sulla crisi economica. Libero in realtà titola: ecco chi è l'uomo che affonda il PD, la vera storia di Penati. C'è una in prima pagina, non una fotonotizia ma un disegno, una vignetta, una caricatura possiamo dire, galleggia Bersani con una cuffia a fiori che forse è intesa come segno caratteristico degli emiliani in spiaggia, non lo so, cerco di immaginare perché, e sotto di lui c'è una piovra che ha la faccia di Penati, e appunto questo sarebbe l'uomo che affonda il PD, amici e affari dell'ex braccio destro di Bersani, e spunta un'altra accusa. L'articolo principale di Maurizio Belpietro, direttore di Libero: la sinistra scopre il pericolo PM. Il Riformista, anche in questo caso c'è un titolo politico ed è: Silvio si presenta alla Camera, Berlusconi cede alla richiesta delle opposizioni e delle parti sociali, e l'abbiamo letto prima anche sugli altri giornali legato al titolo sulla crisi, e appunto si presenterà in Parlamento, spiegherà come era stato chiesto dalle opposizioni a che punto siamo della crisi, o meglio a che punto siamo come reazione delle nostre istituzioni alla crisi che è globale, non certo solo italiana, e poi incontrerà Confindustria e sindacati per un patto per la crescita sul modello Ciampi. La Padania ha un titolo ancora diverso dagli altri, che è: ma a cosa serve la NATO? Punto interrogativo. Il Carroccio chiede all'alleanza di attuare rigorosi controlli per bloccare gli sbarchi. Immigrati in rivolta, Bari a ferro e fuoco, vergogna, lo Stato deve reagire. E poi ne parlavamo prima con Irene, questa proposta lanciata dal ministro Calderoli ai suoi colleghi politici di non fare vacanze, e la Padania, che ieri non era in edicola perché come molti quotidiani diciamo minori al lunedì non esce, e quindi ne parla oggi mentre altri quotidiani ne parlavano ieri. Calderoli: niente vacanze, siamo padani. Il ministro chiede uno sforzo importante alla politica e alle parti sociali. Poi vi segnalo la prima pagina del Foglio, il quotidiano di Giuliano Ferrara. C'è in prima pagina una cosa abbastanza insolita sul Foglio durante la settimana, mentre lunedì che è quando il Foglio raccoglie il meglio, secondo il Foglio, degli articoli della settimana precedente, l'abbiamo letto ieri, in prima pagina c'è sempre un articolo del direttore Giuliano Ferrara, si distinguono non per la firma, perché sul Foglio ci sono pochissime firme, ma per un elefantino rosso alla fine dell'articolo. Oggi Giuliano Ferrara ricorda Giuseppe D'Avanzo. Giuseppe D'Avanzo è il giornalista di Repubblica che è morto sabato per un infarto, aveva soltanto 57 anni, stava per compierne 58, e ieri ci sono stati funerali funerali a Roma e Giuliano Ferrara scrive: in morte di un soldato. Avevamo bisogno di un avversario come Giuseppe D'Avanzo, che è caduto combattendo. Usa questa metafora e ve ne leggo un pezzettino del pezzo di Ferrara. È caduto da soldato per un incidente cardiaco in perlustrazione in sella a una bicicletta, questo avversario di cui avevamo in qualche senso bisogno. Se il mondo fosse popolato solo dalle nostre passioni e dai nostri errori, sarebbe un incubo di noia. Servono dannatamente anche le passioni e gli errori degli altri. In Giuseppe D'Avanzo niente era gratuito, accademico, formale, tutto era carnale e pazzescamente sentito in prima persona. Non è una questione di buona fede. E qui il guizzo di Ferrara: non ci permetteremmo mai di offendere un collega attribuendogli buona coscienza. È una questione di vitalità, di pegni che si prendono e si lasciano nel percorso tortuoso e ambiguo che si inizia con la nascita e si chiude altrettanto a casaccio, scelti e incapaci di scegliere con tutta la nostra apparente libertà. Un giornalista che difende con cipiglio la sua ditta, che la sceglie per ragioni e per istinti di vita, non passa la sera a leggere Kant, non discetta, non fa lezioni, scuce balle e verità alle sue fonti invece e si legge tutte le carte, anche quelle che faranno da carburante alla macchina del fango. Passiamo poi a guardare un po' gli articoli che ci sono all'interno dei giornali, ce ne sono tantissimi, io lo ripeterò fino alla noia, magari approfittiamo di questi giorni in cui possiamo leggere i giornali con un pochino più di calma, perché in ogni giornale c'è un mondo, è come un bazar, ognuno ci può trovare un sacco di cose e basta avere appunto un po' di tempo, un po' di voglia di sfogliarli con attenzione. E cominciamo, torniamo al Sole 24 Ore, come vi dicevo prima ci sono tantissime pagine dedicate alla crisi dei mercati, ma anche a come risparmiare, a come affrontare da singoli cittadini e risparmiatori la crisi. E poi c'è sul Sole 24 Ore a pagina 35 una nuova puntata dell'inchiesta di Angelo Mincuzzi e Giuseppe Oddo. Ve ne avevo segnalato una prima parte due sabati fa quando avevo fatto la rassegna stampa, e Angelo e Giuseppe erano andati in Liechtenstein a caccia di documenti sul San Raffaele. Oggi invece si dedicano agli affari del San Raffaele in Brasile. Il titolo è Le origini di un dissesto. I guai cominciano in Brasile con la sciagurata decisione di diversificare l'attività sanitaria del San Raffaele nel settore della viticoltura. E vi invito appunto a leggere l'intero articolo. E su questa questione c'è anche il Fatto Quotidiano. L'editoriale di Marco Travaglio di oggi è strettamente legato agli affari del San Raffaele in Brasile e si intitola Narra Cionicchi le gesta di Don Verzé. Ve ne leggo le prime righe, poi diremo lo spazio al traffico, però appunto vi consiglio anche questo. Scrive Travaglio: deve esserci un misterioso blackout che ostruisce le comunicazioni fra Puglia e Lombardia. Ieri, infatti, mentre a Milano è sempre più probabile il fallimento della Fondazione San Raffaele di Don Luigi Verzé, sprofondati in un buco di quasi un miliardo, a Bari il governatore Nichi Vendola conferma di voler investire 200 milioni di euro nel più grande ospedale pubblico del Mediterraneo, il San Raffaele del Sud, l'opera che Taranto merita. Chiuso le virgolette. Ospedale pubblico nel senso che i soldi li mettono i cittadini pugliesi, 60 milioni già anticipati al San Raffaele, altri 14 in arrivo, sempre a carico dei contribuenti. La gestione invece, la chiamano sperimentazione gestionale, resterà privata, privatissima, affidata alla stessa fondazione del prete affarista, già cappellano di Craxi e di Berlusconi, ma anche di Vendola. E questo è Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano. Dal Sole 24 Ore vi segnalo anche un altro articolo a pagina 19 su questa nuova tendenza del travel retail, cioè l'aprire negozi nei luoghi dove si viaggia. Fino adesso era stato in Italia soprattutto negli aeroporti, e invece con il grande restyling che stanno subendo tutte le nostre stazioni ferroviarie, ora questa tendenza si è sposta appunto nelle stazioni ferroviarie. Si parte dalle quelle grandissime, Milano e Roma, ma è una tendenza, scrive Marta Casadei oggi sul Sole 24 Ore, che in realtà si può notare in tutte le stazioni italiane. Lo shopping si fa in stazione, le grandi catene di abbigliamento soprattutto aprono negozi in tutta Italia per attirare i vacanzieri, ma anche gli uomini d'affari o in generale tutte le persone che passano per le stazioni ferroviarie. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Stavamo guardando le pagine interne dei quotidiani dopo aver visto le prime pagine, che sono tutte dedicate alla reazione delle borse di ieri, alla performance delle borse di ieri. Un ascoltatore mi fa notare che non necessariamente la reazione delle borse secondo lui è legato all'accordo degli Stati Uniti, come invece sottolineano un po' forse semplicisticamente alcuni titoli dei giornali. E però appunto questa è certo la situazione è molto complicata, però i due eventi non possono essere considerati come completamente slegati, cioè l'accordo americano, che lo ripeto è la più grande economia del mondo, e la reazione che hanno avuto ieri le borse. Ma torniamo alle pagine interne dei quotidiani. Vi segnalo sul Corriere della Sera una recensione a un libro che si chiama Filogelos, la recensione di Eva Cantarella. L'articolo si intitola La sai l'ultima su Platone, e perché questo libro raccoglie 265 storielle o barzellette dell'antica Grecia, ed è molto divertente pure capire che ovviamente ridevano anche gli antichi greci, e poi su che cosa ridevano, qual era l'argomento principale delle barzellette: gli intellettuali, gli avari, le donne. Così si rideva nell'antica Grecia, beh, forse allora non erano tanto diverse da quelle che ci raccontiamo noi oggi. E da Repubblica, come vi dicevo prima, ci sono due articoli che iniziano in prima pagina e poi proseguono all'interno, belli tutti e due secondo me. Il primo di Gian Piero Visetti: in Cina negozi che ha clonati, la nuova frontiera del falso. E all'interno c'è una pagina intera: nella capitale delle imitazioni, finti store di grandi marchi ci si adegua alla richiesta crescente di prodotti occidentali. Vi leggo solo le ultime righe. In Cina nell'ultimo anno sono stati scoperti falsi concessionari d'auto, catene di centri commerciali sportivi che usurpavano i più grandi marchi, e 6 McDonald's finti che servivano gli hamburger di fast food autentici. Solo 2 punti vendita sono stati chiusi per irregolarità amministrative, e a sorpresa il popolo della rete assolve l'imitazione cinese degli store di tendenza. Stessi prezzi, la sentenza, ma più scelta, pronta consegna e servizio minore. È la Cina, dal contenuto al contenitore, dal comunismo al capitalismo, senza che nessuno se ne accorga. E poi vi dicevo prima l'articolo di Stefano Benni, uno scrittore, una specie di parodia di una legge che ancora non è stata approvata in via definitiva, quella sul processo lungo. Come testimoniare al processo lungo, scrive Stefano Benni. Scena: aula di tribunale, giudice: dichiaro aperta la 2100ª udienza del processo. Ci sono testimoni della difesa? Testimoni: ci sono io. Giudice: bene, mi dica allora cosa ha da testimoniare. Testimone: ero alle 7 di sera in agosto con 1600 amici in un bar nei pressi di Segrate, quando vidi l'avvocato Mills col cappotto passeggiare su un marciapiede. La parodia è naturalmente che a quel punto si può chiedere di convocare queste 1600 persone come testimoni. È naturalmente appunto una parodia. Una delle critiche maggiori che si muove a questo provvedimento è che la possibilità di convocare quanti testimoni si desideri, che non è un obbligo, è una possibilità, però potrebbe allungare infinitamente i tempi della giustizia italiana, che sappiamo sono già molto lunghi. Dalla Repubblica vi segnalo anche una pagina di Cristina Dadotti sulla corrida. È un'arte da salvare. Vi ricorderete che c'era la possibilità che venisse proprio vietata, e ora, scrive la Repubblica, retromarcia di Madrid perché i socialisti sarebbero a caccia di consensi, e quindi adesso lo definiscono un prodotto culturale, mentre gli animalisti ne chiedono da molti anni in realtà la messa al bando. Vi segnalo da Repubblica anche un intervento di Adonis, che è forse il più grande poeta arabo vivente, ed è sulla repressione in Siria. Ieri tutti i giornali l'avevano in prima pagina, oggi già molto meno, e comunque la repressione in realtà continua. Pare che l'esercito siriano abbia di nuovo sparato sulla folla. È una repressione che avviene un po' nell'ombra, molto difficile farne una cronaca giornalistica, i giornalisti ovviamente non sono ammessi, e quindi però speriamo che qualche notizia filtri, magari grazie anche ai social media. Scrive Adonis: l'esercito contro il popolo, questo regime è indifendibile. Così è necessario che accada qualcosa all'interno del regime. Vi leggo solo le ultime righe dell'intervento di Adonis: qualcosa di radicale e importante, in grado di evitare alla Siria la catastrofe verso cui si sta avviando, un evento che porti alla rinuncia diretta e immediata della violenza, dell'assassinio, e prepari il terreno a un nuovo governo. Adonis è per metà siriano e per metà libanese, è stato anche candidato al premio Nobel. Dalle pagine di Repubblica vi segnalo la trascrizione dell'orazione funebre che ieri il regista Paolo Sorrentino ha letto al funerale di Giuseppe D'Avanzo, il giornalista morto sabato. E vi segnalo soltanto le prime righe, però è molto bello e molto commovente. Scrive Sorrentino: a un certo punto durante le chiacchierate Peppe, così lo chiamavano gli amici, ricorreva a un suo intercalare tipico, diceva a voce alta: scusate, ma di cosa stiamo parlando? Per me era il momento della gioia, idealmente mi accomodavo in prima fila, Scusate, ma di cosa stiamo parlando? Ripeteva e ci faceva notare che era molto interessante quello che dicevamo, ma che il punto centrale inedito della questione era un altro. Peppe conosceva sempre il punto centrale inedito della questione. Se invece non lo conosceva, diceva non lo so. Ora sommessamente ripeto, di cosa stiamo parlando? Capirete, insomma, sono una giornalista e la scomparsa di Giuseppe D'Avanzo mi ha molto colpita, perché sicuramente era, come scrive Giuliano Ferrara sul Foglio, suscitava sentimenti contrastanti, aveva molti nemici tra virgolette, però insomma era un grande giornalista, faceva il suo lavoro in modo ammirevole. Oggi, in un'epoca in cui il giornalismo d'inchiesta ha forse meno spazio che una volta, appunto mi fa piacere dedicare un po' di tempo a ricordare com'era Giuseppe D'Avanzo, soprattutto nelle parole di chi lo ha conosciuto bene. Dalla Stampa vi segnalo un articolo, un approfondimento, un'inchiesta appunto, che non ho trovato sugli altri giornali, riguarda Gibilterra, si intitola La marea nera silenziosa che uccide la baia di Gibilterra. Le navi infatti vengono rifornite in mare dalle petroliere, questo implica dei risparmi, però con grandi rischi per l'ambiente, come ci spiega Gian Antonio Origni, inviato a Madrid della Stampa. Dalla Stampa vi segnalo anche un articolo curioso nelle pagine degli spettacoli, si intitola Quando il cinema sembra un quadro, di Fulvia Caprara, e che spiega come si stiano moltiplicando i film tra virgolette pittorici. Per il direttore della mostra di Venezia Marco Müller, il contatto tra arti crea una nuova fase evolutiva, e ci sono parecchi esempi di questi nuovi intrecci tra l'arte pittorica e il cinema. Dall'Avvenire vi segnalo una notizia sul turismo. Secondo l'Avvenire, l'ospitalità in Lombardia è in crescita nonostante la crisi. In regione c'è stato un aumento di 3.000 strutture, boom dei bed and breakfast e dei residence più 10%. La provincia che offre il maggior numero di impianti turistici è Milano, ne conta 882, seguita da Brescia con 735. A volte non pensiamo a Milano come una delle capitali del turismo, secondo questi dati invece appunto ci sarebbe una forte crescita. Vi segnalo invece dal Secolo XIX un altro articolo che ho trovato soltanto appunto su questo giornale, il Quotidiano di Genova. Il Pentagono arruola i delfini antiterrorismo. La Marina americana ricorre ai mammiferi per difendere i porti. Insieme a 35 leoni marini catturano i subintrusi. Ci avevano già spiegato tanti etologi che i delfini sono animali intelligentissimi, e questa sarebbe un'ulteriore conferma. C'è anche un precedente, spiega il Secolo XIX. Nel 2003 in Iraq i delfini sminatori hanno sventato almeno 100 attacchi subacquei. Dal Foglio poi vi segnalo una serie che prende il via, molto estiva, ma la trovo molto divertente. Si chiama L'Indigeribile ed è dove alcune persone sono libere, con più grazia possibile si spera naturalmente, di spiegare perché una certa persona gli è antipatica. E l'inizio è la puntata iniziale di Stefano Di Michele, un giornalista del Foglio. Per lui l'indigeribile è Fabrizio Rondolino, che è l'ex portavoce di D'Alema, insomma un altro uomo di sinistra che però è sempre stato un po' controverso. Purtroppo non abbiamo più tempo, adesso è arrivata Irene. Pensavo mi stessi invitando a prendere parte al gioco. No, pensavo no. Dovessi cominciare io a dire che era indigeribile. No, esercizio difficilissimo. Peccato. Scrivere una pagina intera su una persona che ti è antipatica senza offenderla possibilmente. Devi avere un sacco di tempo libero, non è il caso di tutti. Grazie per questa rassegna stampa. Giulia Crivelli, la voce di English 24, esperta di economia del Sole 24 Ore. Alla prossima, Giulia. Alla prossima, settimana prossima, perché poi ci risentiamo martedì 9. Grazie ancora. E 24 Mattino prosegue, vi ricordo il numero a cui chiamare, 800 24 00 24, nel caso vogliate intervenire telefonicamente alla nostra discussione odierna sui costi della casta, quasi un gioco di parole. Ci sarà anche Gian Antonio Stella con noi, il giornalista del Corsera, autore poi della definizione che ha preso piede ovunque, quasi diventato un sinonimo di politica e Parlamento, i privilegi di casta, politica che sembra corra ai ripari e poi in realtà, avete sentito anche dalla rassegna stampa, sprechi, raddoppi di stipendi, auto blu che escono dalla porta e entrano dalla finestra. Se volete intervenire invece tramite SMS 349-238-6666, la nostra discussione continua anche nella pagina Facebook di 24 Mattino. 24 Mattino estate con Irene Zerbini. E ci siamo ritrovati per parlare del presidente Giorgio Napolitano, che ha annunciato che da qui a fine mandato chiederà al ministro dell'economia di non corrispondergli gli aumenti previsti annualmente per il suo stipendio. Quindi sicuramente quelli del 2012 e dei primi mesi del 2013, quando scadrà il suo mandato. È una delle tante rinunce a cui abbiamo assistito in questi giorni, forse una risposta a quella richiesta di austerity che viene dal paese. Ne parleremo diffusamente, perché in realtà le ricette per uscire dalla crisi si moltiplicano, non è detto che siano tutte efficaci. Vogliamo sentire anche il vostro parere alle 8.30 in 24 mattino estate. Tra pochissimo invece il nostro incontro con i giornalisti stranieri che vivono in Italia. Visti da fuori. Hola, hola, Andrés Leonardo Beltramo Alvarez, buona giornata. Buongiorno a tutti. E la voce che sentite è argentina, anche se in realtà, Andrés, tu sei corrispondente dell'agenzia di stampa messicana, Notimex. Certo, è l'agenzia nazionale del Messico. E com'è successo? Come mai sei stato ingaggiato dai messicani per stare in Italia? Io ho studiato nel Messico, diciamo, quando avevo 18 anni ho avuto questa possibilità di una borsa di studio, di andare a studiare nel Messico, poi lì ho poi fatto un po' di carriera e 5 anni fa mi hanno fatto la proposta. Già lavoravo a questa agenzia nel Messico e poi di fare il corrispondente qui in Italia. Qual è il primo pensiero che ha attraversato la tua mente quando ti hanno parlato d'Italia e Roma? È un paese importante, un posto dove valeva la pena venire a trovare le notizie e a raccontare le storie. Sicuramente l'Italia è affascinato per la storia, però anche per il suo posto importante nella geografia mondiale. E di cosa ti sei occupato ultimamente? Quali pezzi hai prodotto sull'Italia? Ieri proprio è stata una giornata abbastanza movimentata, perché la situazione economica è una situazione difficile, quindi abbiamo parlato di Berlusconi, che domani dovrebbe riferire al Parlamento sulla crisi, e anche sulla situazione degli immigrati, che purtroppo non è buona in Italia, e anche un po' del Vaticano, perché ovviamente qui in Italia, essendo a Roma, il Vaticano ci fa tanto interesse, no? E nel Vaticano in particolare abbiamo visto, hai coperto anche tanti scandali, hai parlato di notizie che hanno scosso sicuramente i tuoi lettori in Messico. Sì, perché la Chiesa Cattolica è un punto importante e lo sarà sempre, comunque nel bene e nel male, per così dire. Ultimamente la Chiesa è stata travolta da tanti scandali e la gente vuol sapere, vuol capire che succede. È un'istituzione che sicuramente non ha digerito bene negli scandali sessuali e negli scandali economici, quindi è importante scrivere su questi argomenti con molto rispetto, però con molto approfondimento, perché alla fine sono temi che a livello internazionale ci hanno riservato tanta attenzione. E dunque, Andrés, tu non hai il problema di metterti le mani tra i capelli e chiederti, vivendo in Italia, di cosa posso occuparmi in questa stagione estiva? Materiale non te ne manca. Ma veniamo a te. Tu vivi qui con moglie e figli? Ecco, vivo a Roma da 5 anni, da 3 anni. Proprio oggi 2 agosto, sto facendo 3 anni di matrimonio, quindi già un cammino qui in Italia. Ho 2 bambine, una appena nata, quindi un po' di vita qui in Italia. Tantissimi auguri collettivi, naturalmente, da Radio 24. Grazie. Per tutte queste scadenze importanti. Sì, quando sì. Tu ti ritrovi poi a parlare, per esempio, con la tua compagna, con tua moglie, a sua volta argentina, dell'Italia, sono più i sorrisi o le arrabbiature? Cos'è che notate? Un po', perché ovviamente noi abbiamo già trascorso il nostro matrimonio qui in Italia e non senza fatiche, perché sicuramente oggi gli italiani, quasi tutti, stiamo io mi sento anche un po' italiano, perché anche mia moglie c'è la cittadinanza italiana, quindi ha un po' di famiglia italiana, e dicevo, stiamo vivendo un po' una situazione di sofferenza in tutti i sensi, no? C'è un po' di incertezza, e questo anche quelli che veniamo di fuori, che magari abbiamo la testa un po' diversa, un po' più aperta, viviamo questi problemi, li sentiamo tutti i giorni, no? Sicuramente ci sono tante cose positive, cose buone, amicizie che l'Italia ci ha permesso e che per noi sono tanto importanti, però comunque anche questa difficoltà degli italiani la sentiamo pure noi. Ma in pratica, se ti svegli italiano domani con la bacchetta magica, qual è la prima riforma che fai, la prima cosa che cambi? La prima cosa che cambierei sarebbe la burocrazia. Credo che tutti gli italiani saranno d'accordo con me che la parola burocrazia, sto parlando in italiano e spagnolo, la parola burocrazia è semplice, non c'entrano nello stesso paragrafo, e questo è un grande problema, perché non è una situazione che pesa soltanto nel tempo che noi ci mettiamo nel risolvere i problemi di tutti i giorni. Pesa questo tempo perso, sono risorse del paese che vengono sprecate per problemi burocratici che a volte sarebbero più facile risolvere. Questo ci... Quindi la burocrazia, il primo campo in cui tu interverresti se ti svegliassi italiano e col potere di cambiare qualcosa, naturalmente. Invece cosa salvi dell'Italia? La prima cosa che ti riporteresti indietro in Argentina? La storia e la grandezza, perché l'Italia è grande, un paese grande, ha fatto parte dell'storia. Io rimango sempre molto incuriosito di quanta storia c'è in Italia, anche nei paesi più piccoli che oggi sono spopolati, quasi paesi spopolati che nel passato hanno fatto storia secolare. Quindi quello non è soltanto un patrimonio dell'Italia, è un patrimonio di tutto il mondo, dell'umanità. Gracias Andres Leonardo Beltramo Alvarez, salutaci con il tipico accento argentino sul castigliano, dici una frase conclusiva. Un saluto para todo el auditorio de Radio 24. Grazie dunque, abbiamo incontrato questa mattina nella nostra rubrica Visti da Fuori Andres Leonardo Beltramo Alvarez, un argentino corrispondente dell'agenzia di stampa messicana Notimex. Ritorna questa rubrica per tutto il mese di agosto alle 8:20 e tra poco saremo ancora insieme a 24 Mattino Estate per cercare le ricette dell'austerity per ridare credibilità alla politica italiana. Mattino Estate. 32 minuti dopo le 8, ancora buongiorno da Irene Zerbini. Le ricette per uscire dalla crisi in questi tempi che sono stati definiti decisamente di sacrificio. Ultima, in ordine di tempo, è stata la proposta del ministro Roberto Calderoli di far lavorare i politici anche nel mese d'agosto. Una proposta che alcuni hanno definito più che sensata, altri invece hanno avuto la reazione opposta. Mandateli al mare, queste sono buttate, demagogia, si parla alla pancia. In realtà non risolverebbe i problemi della politica. Da che parte state? Voi come la pensate? Contribuite con i vostri interventi, con i vostri messaggi al 349-238-6666 o al numero verde 800-24-00-24. Intanto io do il buongiorno ai miei ospiti, c'è un signor deputato in onda. Buongiorno, mi sente? Buongiorno. E vorrei presentare a tutti un deputato che guadagna 7.700 euro circa, quindi una decurtazione rispetto a quello a cui siamo abituati. Quando parliamo di 7.700 euro, parliamo di lordo o netto? È lordo, è tassabile. 7.700 euro circa per questo deputato. Rimanga con noi Gian Antonio Stella, buongiorno. Buongiorno. Perché ridi prima di tutto, scusa? È un deputato vero? Questo deputato non è nostro. Ah, ci hai già scoperto, non è nostro, non so se a tradirlo è stato più l'accento o lo stipendio. Sì, mi piaceva consolarti, visto che dopo la casta e visto che tu, come dire, fai le pulci giustamente a quelli che sono gli sprechi della politica, ogni tanto temo magari cada in depressione, non c'è speranza. Allora volevo presentarti questo deputato, Manfred Kolbe, della CDU, del Bundestag tedesco. Lo ringrazio anche per essersi prestato a rendere pubblica sulla radio italiana la sua remunerazione. Gian Antonio Stella, tu hai sentito e la proposta di Calderoli e alcune iniziative virtuose che vanno dal sacrificio di Napolitano, per esempio, che rinuncerà agli aumenti di stipendio. Ci sono poi delle regioni che rinunceranno ai vitalizi. E qualcosa si muove nel senso del taglio al privilegio di casta, ma basta? È la direzione giusta in cui andare? È sufficiente secondo te? Allora, i finanziamenti ai beni culturali, parlando di un mondo che è l'unico nostro petrolio, un mondo esaltato da Berlusconi in uno spot ridicolo in cui dice che abbiamo il 50% dei beni tutelati dall'UNESCO, quando abbiamo il 5%. Cioè abbiamo 45 siti, più siti di tutti gli altri al mondo, però è il 5% e non il 50%. C'è una bella differenza. I beni culturali hanno avuto un taglio del 50% in 10 anni, non si sono fermati i finanziamenti ai beni culturali, sono stati tagliati, è stata tagliata la scuola, è stata tagliata l'università, sono stati tagliati gli stipendi più alti con una ridicola formuletta che poi in realtà è un aumento di tasse, e la politica sta ferma, i cittadini farebbero cambio. Allora stiamo fermi noi con le nostre pensioni, le nostre distribuzioni, le nostre pensioni anzianità e tutto quanto, stiamo fermi noi e tagliate voi, facciamo cambio? Sai Gian Antonio Stella, c'è anche chi ha reagito dal Parlamento in maniera molto insofferente dicendo che bisogna difendere il prestigio delle istituzioni e vivere, spendere fa parte del decoro delle istituzioni, quasi non a dire... Credo che il Presidente della Repubblica tedesco viva in modo poco dignitoso, poco decoroso, oppure che faccia una figura, diciamo così, pauperista, anche solo perché spende un ottavo della Presidenza della Repubblica Italiana. Ma questo, con questo non voglio dire che abbia Napolitano sia in torto, io credo che la macchina sia impazzita al punto che neppure delle persone per bene, assolutamente integerime, cioè i quali mettono la mano sul fuoco come Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano, riescono a tagliare. È talmente impazzita che non riescono a tagliare neppure loro. Questo è il nostro problema. E quindi non rischiamo certo l'indigenza se mettiamo la mano a certi tagli. Ritornerei a Manfred Kolbe, pazientissimo. Buongiorno Manfred. Buongiorno in Italia, e per primo ho sentito il bollettino meteorologico, vi invidio per il bel tempo che avete in Italia, qui piove da una settimana, ma buongiorno dalla Germania. Pensavo ci invidiasse per il salario dei suoi omologhi da questa parte. Innanzitutto Kolbe, voi quanti siete? Quanti deputati e quanti senatori siete in Germania? Beh, in Germania abbiamo il Bundestag, un Parlamento, non abbiamo il sistema bicamerale. E Camera unica. Sono all'incirca 600 deputati, regolari 598, e poi ci sono questi mandati supplementari che in certe situazioni attualmente siamo in 622. Per una popolazione di 82 milioni di abitanti. E siete eletti con quale sistema? Beh, c'è un sistema doppio, la metà dei deputati è eletto direttamente in circoscrizioni elettorali, sono 299 circoscrizioni, io sono eletto direttamente nella circoscrizione di Lipsia Nord, cioè la regione a nord di Lipsia, e l'altra metà è eletto per lista. Quanto costa la metropolitana a Berlino? Il biglietto? Beh, il biglietto sono 2,20 euro. La prende lei? La usa per viaggiare, per spostarsi? Dico raramente, sì, perché il complesso parlamentare è concentrato al centro e o si fa a piedi, e la uso raramente. E poi a Berlino abbiamo anche il pool delle macchine. Avete un pool a disposizione di voi parlamentari che arrivate da altre zone della Germania? Come arriva lei da Lipsia a Berlino? Beh, i deputati arrivano in modo differente. O prendono l'aereo, se arrivano da Monaco o da Stoccarda, perché sono 600-700 chilometri, o la maggiorità arriverà in treno a Berlino, perché abbiamo un sistema di treni rapidi abbastanza efficiente in Germania. Dunque, innanzitutto complimenti per il suo italiano, questo è un dato che ha suscitato... Ho avuto la fortuna di vivere 10 anni a Roma, questa è la ragione. Quando era ragazzo ho frequentato anche il liceo, sono domande che ci stanno facendo i nostri ascoltatori e di conseguenza chiariamo anche questo aspetto, non è che diano i corsi di italiano gratuiti alla Bundestag, è una nota biografica di Manfred Kolbe che l'ha portato a maneggiare così bene la nostra lingua. E lei, tra l'altro, grazie a questa padronanza dell'italiano, ha letto anche il libro La Casta, di cui ospitiamo l'autore questa mattina. Quali sono le grandi differenze che ha trovato tra le indennità, il sistema di finanziamento della politica in Italia e quello riservato a voi tedeschi? Beh, adesso per me come parlamentare tedesco... Non vuole esprimere giudizi. È difficile commentare la situazione, non voglio fare dei paragoni, ma una cosa bisogna anche dirla, i parlamentari sono criticati ovunque, sia in Italia, sia in Germania e anche in altri paesi. Qui c'è una doppia aspettativa del pubblico. Da un lato il pubblico vuole un Parlamento di esperti, anche in grado di discutere, per esempio adesso con la crisi dell'euro che abbiamo, con le banche, con le istituzioni finanziarie internazionali, cioè un Parlamento a livello di queste istituzioni. Chiaro. Per difendere gli interessi dei pagatori di tasse. D'altro canto il pubblico in nessun paese del mondo vuole un Parlamento super stipendiato, ci concede uno stipendio medio al massimo. Cioè, questa è una certa contraddizione. Lei non può avere un Parlamento di esperti che è in grado di risolvere i problemi pagandoli molto peggio che in economia. Questo è la contraddizione che abbiamo ovunque. Cioè, bisogna essere in grado di far concorrenza al settore privato, lei dice, per strappare i migliori cervelli e far sì che si impegnino in politica. O sta invocando un aumento degli stipendi di voi parlamentari tedeschi? No, non lo cioè, non vorrei non lo che dopo aver essersi informato sulla situazione italiana, invece di pensare alla moralizzazione, alla politica, pensasse di trasferirsi qui. Come? Non vorrei che di aver sortito l'effetto opposto, no, con lei. No. È chiaro. La ragione sarebbe il tempo, ma sì, il clima, l'unica ragione. Sì. È chiaro che la richiesta di tagliare i costi della politica è diffusa ovunque, anche dove non esistono gli sprechi che abbiamo in Italia. È chiaro che in qualche modo l'opinione pubblica preme sempre in quella direzione. Ma per esempio le retribuzioni che vi danno per i collaboratori, perché ogni parlamentare in attività in generale nelle democrazie è riconosciuto una voce spese per pagarsi appunto assistenti collaboratori sul territorio. Come sono articolate? Sì, qui in Germania abbiamo un certo rimborso per spese di assistenti parlamentari, ma questo rimborso non va al parlamentare, ma va direttamente all'assistente parlamentare. E se noi non abbiamo assistenti parlamentari, non intascate quei soldi, non abbiamo rimborso. Cioè nessun euro di questo rimborso per assistenti parlamentari va attraverso le mani del parlamentare, va direttamente all'assistente, a colui che ha assunto. Sì. E naturalmente non in nero, assume, immagino. Se uno non assume non ha nessun rimborso. Gian Antonio Stella. Da noi è tutto diverso, al punto che quando un parlamentare del Paravia, un senatore di Alleanza Nazionale, chiese all'allora segretario generale del Senato cosa poteva fare con quei soldi. Ha avuto la risposta ufficiale, che abbiamo anche pubblicato sulla carta, la risposta ufficiale era: se vuoi pagare un collaboratore lo paghi, se no si tenga. È stata una... questo che fanno larga parte di questi parlamentari. Per quello qualche tempo fa si è scoperto che in realtà la maggioranza degli assistenti dei parlamentari in Italia non ha nemmeno un contratto regolare, oltre allora, essere... L'ultimo dato è questo: su 630 deputati, 230 contratti di lavoro per i portaborse e 400 che non hanno fatto il contratto, prendono i soldi, si ritengono, se vogliono danno una pipa di tabacco, di solito sono 500 euro al collaboratore, eppure li danno al partito che mettendo un collaboratore, diciamo così, in comune, oppure se li mettono in tasca. Non c'è nessunissimo tipo di controllo, anzi lo rifiutano il controllo. E voi come... di circa 4.000 euro. Chi controlla le vostre spese? Manfred Kolbe in Germania, qual è l'organismo preposto al controllo delle vostre spese, dei vostri budget? Beh, sinceramente qui non può esserci un controllo, perché altrimenti questo ristretterebbe il lavoro parlamentare. Per esempio, se lei avesse un controllo governativo sulle spese dei parlamentari, sarebbe facile per ogni governo controllare l'opposizione. Cioè, questo controllo non può essere, questa è la responsabilità di ognun parlamentare. Ma credo che questo sistema che abbiamo col rimborso delle spese per assistenti parlamentari funziona, perché nessun parlamentare ha un interesse. Ma come garantite la trasparenza? Non perché se lui non assume non riceve niente, così credo che questo sistema funziona. Certo, a parte la spesa per i collaboratori, in generale come garantite la trasparenza? Le vostre spese sono pubblicate sui vostri siti, come ha accesso il cittadino a quello che fate, anche dal punto di vista del finanziamento delle vostre attività? Credo che il controllo consiste nel modo, nel sistema elettorale. Non c'è nessun professionista che si è controllato nello stesso modo come un parlamentare, perché il pubblico si interessa per il lavoro del parlamentare, il pubblico regionale vuole parlare col parlamentare. Io ho 4 uffici nel mio distretto elettorale dove sono presente, dove mi consulto con i cittadini, cioè. Quindi ha un controllo contatto. Lo esercita il cittadino sul parlamentare. Ha un contatto diretto e continuo che prosegue anche dopo l'elezione. 24 mattino estate. È un brano dedicato dal nostro regista. Ci diceva il nostro parlamentare tedesco di quanto l'opinione pubblica in generale preme verso i politici. Allora Peter Bescapè ha pescato questo brano di Stevie Wonder, lo ringrazio per la scelta, You've Done Nothing, rivolto proprio ai politici. Non avete fatto nulla. Attenzione, dice qualcuno, però alla deriva populista, alla sfiducia generalizzata verso la classe politica. Gian Antonio Stella, abbiamo detto 7.700 euro circa, ha preso l'aereo, ci fanno segno dalla regia, quindi stavo praticamente parlando a me stessa. 7.700 euro circa abbiamo sentito per il parlamentare Manfred Kolbe, impegnato con la CDU alla Bundestag, al Parlamento tedesco, altra differenza, a Camera unica. E di fronte a me ho la busta paga di un senatore francese, di uno a caso, ma è un facsimile che naturalmente si ripete, ottenuta tra l'altro abbastanza agevolmente, devo dire, ieri nella preparazione di questa trasmissione. Ora, dalla busta paga risulta che la nostra amica politico-politica francese percepisce al mese 5.405 euro e 76 centesimi, molto lontano dalle paghe dei nostri parlamentari. C'è qualcuno che ci segnala giustamente, non è solo il costo del Parlamento, momento abbiamo un'amministrazione ipertrofica, abbiamo delle istituzioni sul territorio che contribuiscono agli sprechi in maniera anche più rilevante. Ora va detto che succede qualcosa, ogni tanto ci sono anche esempi che vanno in controtendenza, e lo sa bene un funzionario della Camera dei Deputati che un giorno si è ritrovato un fax che l'ha in quasi della presidenza della Camera dei Deputati, ce l'ho questo fax davanti a me, l'ha quasi gettato nel panico perché non sapeva come rispondere, come procedere, cosa fare in seguito a questa richiesta. Era la richiesta di rinuncia al rimborso elettorale, una richiesta che non era mai stata compilata prima. Abbiamo l'autore di questa richiesta, Davide Bono del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, Sana. E Davide Bono è consigliere regionale in Piemonte. Perché avete deciso voi del Movimento 5 Stelle addirittura di rinunciare a tutti i rimborsi elettorali? Ma perché sicuramente noi riteniamo una truffa quella dei rimborsi elettorali, nel senso, se vi ricordate bene, nel 93 i cittadini votarono un referendum per eliminare il finanziamento pubblico ai partiti sull'onda di Tangentopoli e venne vinto, ma dopo sei mesi venne cambiate solo le parole e divenne rimborso elettorale, quindi è stato reintrodotto il finanziamento pubblico ai partiti, cosa che visto che i cittadini sono espressi con un referendum non lo riteniamo un illecito, e quindi abbiamo deciso di lasciare quei soldi al Ministero del Tesoro, che ovviamente li userà come preferirà. Quindi non di destinarli altrove o a un fondo che potesse intervenire sul territorio, ma di lasciarli al Ministero del Tesoro in ottemperanza a quanto richiesto dal referendum abrogativo del 1993. Questa è la scelta dei 5 Stelle. Quando avete mandato il fax vi siete sentiti dire, tra l'altro, dalla Presidenza della Camera dei Deputati di aver creato quasi un disguido burocratico, nel senso che non si sapeva neanche bene come si fa a rinunciare. Assolutamente, sì, prima ci sono state intercorse delle telefonate ovviamente e c'è stato il panico perché è la prima volta nella storia della Repubblica Italiana ovviamente che veniva fatta una tale richiesta, quindi sicuramente abbiamo seminato un po' di zizzania. Paolo da Palermo, ci sono ascoltatori che vogliono intervenire, buongiorno. Buongiorno a tutti e buona estate. Allora, io penso che il problema dovrebbe essere risolto già da tempo, ma a livello europeo. Cioè, io non capisco come mai da Bruxelles ci viene dettato quanto deve essere insomma l'importo della manovra, quanto deve essere lungo un cetriolo, le multe perché insomma non sappiamo far fronte ai nostri rifiuti di Napoli e tutte queste belle storie. Come mai non Bruxelles non si prende, come dire, la briga di intervenire sui costi della politica italiana? Questa è la mia osservazione. Questa è la sua osservazione, che naturalmente susciterebbe non poche reazioni se presa alla lettera, ma ne discuteremo tra pochissimo. Invece da Parma abbiamo Luca. Buongiorno. Buongiorno Luca. Buongiorno, senta, io penso che non ci sia nessuna deriva populista e che ci sia, la solita scusa, la solita frase fatta. Utilizzando un'altra frase fatta, io penso che per dare un segnale forte al Paese, è una tiritera che sentiamo spesso, non ci sarebbe niente di male che da subito, senza se, senza ma e senza chiacchiere, i parlamentari rinunciassero al doppio stipendio, rinunciassero alla cumulabilità, ai doppi incarichi, perché è troppo comodo, anch'io stimo Napolitano, però è troppo comodo rinunciare alle briciole. Quanti stipendi prende Napolitano? Quanti stipendi prende Ciampi? Quanti stipendi prende Antonio Di Pietro? Quindi lei invita innanzitutto ad agire. Sì. Se la gente prende due pensioni, non si possono adeguare, usando un termine eufemistico, vuol dire tagliare, adeguare. Lo stesso deve valere per i parlamentari. Certo. E da subito, non bastano 2 anni, 6 mesi, non so quanti giorni per maturare una pensione. Da subito la pensione non si può maturare se non con 35 anni in Parlamento. E se uno non li ha fatti 35, non la prende la pensione. Punto e basta. Avrà, non so, un bonus fiscale per il suo rientro poi nella professione originale, diciamo, ha smesso di fare l'avvocato, quindi ha fatto per tre sì, sì, un indennizzo per reinserirsi al mondo del lavoro, basta, finiamola lì. Tutti, Luca, grazie, scusi, invito a sintetizzare, naturalmente è inevitabile il riferimento anche ai doppi incarichi, ma ne abbiamo discusso tante volte, ne avete discusso insieme a Alessandro Milan proprio in questa trasmissione, oggi ci stiamo concentrando su alcuni aspetti diversi. Si era parlato di taglio alle indennità parlamentari, tra l'altro in luglio, poco lì, eravamo quasi lì, non per ridurli alla fame, per equiparare queste indennità a quelli dei paesi dell'area euro, cioè dai 12.000 euro attuali gli italiani ne avrebbero presi 5.339, come nella media europea, un taglio del 53,5% più o meno, un risparmio collettivo. E invece no, è saltato fuori un trucchetto in commissione bilancio per cui l'equiparazione è stata proposta non rispetto alla media europea ma ai sei paesi più grandi e si è aggirato in questo modo anche il possibile risparmio. Tornando a Davide Bono, consigliere regionale del Piemonte, lei quanto percepisce al mese, scusi? Allora, noi come stipendio riceviamo dalla regione un lordo di circa 14.000 euro, che è un netto di 8.400. E lei personalmente? E noi come movimento abbiamo deciso di autoassegnarci solamente, tra virgolette, perché un buon stipendio 2.500 euro netti al mese, mentre la quota restante va in un fondo che si chiama Fondo Progetti, che non va al partito. Perché in questo caso, grazie. Va ai progetti sul territorio per i cittadini. Grazie al consigliere regionale del Piemonte, grazie a Manfred Kolpe, deputato tedesco della ZDU. Rimane molto da approfondire e discutere, potete farlo sul sito Facebook di 24 Mattino. Grazie a Gian Antonio Stella, da Irene Zerbini, appunto. Appuntamento a domani mattina alle 7:15.